Salvadanaio. Il 27 agosto e sono le 12 trascorse da 7 minuti. Buona giornata ancora da Irene Zerbini e da una di tante manager, partiremo proprio da lui, con esperienza internazionale. Ha dichiarato a un giornale che lui, i suoi figli, li farebbe studiare in Italia. Eppure ha la possibilità, viaggiando, poi possibilità economica e per il multilinguismo dei figli, di scegliersi l'ateneo che vuole. Ora, nonostante il clima esterofilo che si respira in Italia, le università italiane, Bocconi, molti pensano a questo nome quando si pensa all'eccellenza, ma non solo, non hanno nulla da invidiare alle realtà straniere, sostiene sempre questo manager da cui abbiamo preso spunto. Oggi è impegnato, non può rilasciarci l'intervista. È vero, ha ragione lui, perché nella classifica delle università migliori del mondo e le italiane compaiono sempre dopo il 100° posto? Come si misura la qualità di un'università? Ma soprattutto, questa spinta ad andare all'estero che si respira in Italia, tant'è che dei 60.000 laureati che ogni anno noi produciamo, circa il 70% dei 60.000 giovani che se ne vanno all'estero dall'Italia ogni anno, circa il 70% hanno una laurea in tasca. Torneranno? E se non torneranno, come si misura l'impoverimento del paese grazie alla loro fuga? Tutte domande che vogliamo rivolgere al governo o, nella fattispecie, al consigliere del ministro all'università, cioè del ministro Profumo, oggi con noi, lo ringrazio per il suo tempo, infatti c'è Mario Calderini. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei. Mario Calderini è un docente di economia gestionale dell'innovazione del Politecnico di Torino, ha circa 45 anni, attualmente è visiting professor alla Tongji University a Shanghai ed è consigliere appunto al Ministero per le politiche di ricerca e innovazione. Cominciamo dalla sua esperienza, dalla sua biografia, visto che dobbiamo dare consigli agli altri, mettiamoci in gioco. Lei, professor Calderini, all'estero ha studiato? O ha scelto sempre atenei italiani? No, io ho fatto la mia formazione di base, diciamo, mi sono laureato al Politecnico di Torino in ingegneria meccanica e poi però ho scelto per fare il dottorato, il PhD all'estero, in Inghilterra, all'Università di Manchester. Devo dire, un po' per una scelta di vita e un po' anche perché l'università italiana, entrando in argomento, ogni tanto tarda un po' a riconfigurarsi alle esigenze di alta formazione dei suoi studenti, quindi io volevo specializzarmi in economia e management dell'innovazione, ho scelto di andare a fare il mio dottorato all'estero, devo dire, ne sono contento. Ma da cosa è stato dettato invece il suo rientro in Italia? Ma io credo che in Italia si trovino ancora delle condizioni molto buone e lo dimostra il fatto che di vita generale, perché poi contano anche nella storia di uno studioso e anche alcune oasi di vera qualità nella ricerca. E lo dimostra il fatto che laddove appunto in questo nostro sistema che ha oggettivamente delle criticità forti, dove si creano dei punti in cui si lavora bene, la gente, italiani e non italiani, torna molto volentieri. E voi pensate che l'università vada fatta all'estero? 800 24 00 24, la domanda è rivolta naturalmente a chi ci sta ascoltando. Se volete partecipare via sms 349 238 6666. Ha parlato il consigliere del ministero di punti d'eccellenza. Ora, si sa che riguardo a investimenti del PIL, l'Italia arretra nella classifica. Investimenti in istruzione, naturalmente. Nei paesi OCSE l'investimento percentuale medio in istruzione del 6,1%, secondo una fonte, un rapporto molto aggiornato, Education at a Glance 2011. In Italia invece siamo al 4,8% del PIL. Abbiamo gli stipendi degli insegnanti italiani tra i più bassi d'Europa, fanno eccezione gli insegnanti universitari, però si arriva a certi livelli solo dopo una lunga, lunga carriera, e abbiamo anche la media straniera nelle università tra le più basse in Europa, cioè circa il 3%, mentre la media in Europa di studenti stranieri è del 10%, nel Regno Unito addirittura sono 1 su 5. Eppure, nonostante questo, quando i nostri ricercatori vanno all'estero sono molto apprezzati, quasi a voler testimoniare l'esistenza di un sistema a due velocità, da una parte forse un po' trascurato, forse sottofinanziato, ma che produce ancora delle eccellenze. Lo chiediamo al professor Andrea Lenzi, che è il presidente del Consiglio Universitario Nazionale. Buongiorno, professor Lenzi. Buongiorno, buongiorno. Lei è un ricercatore da sempre, con i ricercatori ha sempre a che fare. Sì. Qual è il suo giudizio sulla ricerca, intesa anche come persone che poi questa ricerca la svolgono in Italia? Ah, guardi, un po' l'ha detto lei stessa, se parliamo di un comparto italiano che forse un po' trascurato e un po' è stato, soprattutto in passato, sottofinanziato e non adeguatamente curato, ci sono dei dati oggettivi che sono quelli che la competizione a cui noi partecipiamo, che è una competizione globale, dimostra come i nostri ricercatori producono scientificamente in maniera eccellente, tanto da poter raggiungere successi anche stando qua in Italia di livello internazionale, in quanto le nostre pubblicazioni, le nostre idee vengono utilizzate e raggiungono i massimi livelli a livello internazionale. Nonostante le difficoltà che si traducono poi anche nella tecnica della telefonia in Italia, attenzione, bisognerebbe fare qualcosa anche per questo aspetto, tra pochissimo cercheremo di ricontattarlo. Intanto io vorrei chiedere al consigliere del Ministero, professor Calderini, quanto costa un laureato al paese, all'Italia? Ma la produzione di un laureato, diciamo, dipende un po' dai percorsi, dai luoghi, ma per avere un ordine di grandezza vogliamo dire tra i 700.000 euro e il milione di euro quando raggiunge il massimo livello degli studi nazionali, quindi è un grosso investimento. Intanto ci dice Mattia da Parma di aver studiato per 6 mesi in Spagna, consiglia a tutti un periodo all'estero, però dice attenzione che la qualità dell'università straniera non è così elevata come raccontano. Abbiamo sempre questo complesso di Cenerentola che poi ci togliamo quando il piede fuori dai confini lo mettiamo. Il governo sta puntando all'internazionalizzazione. Lei ha spiegato da una parte quanto costa un laureato al paese. Se ci fossero in Italia delle situazioni, delle strutture, degli standard, diciamo così, che non costringessero questa continua fuga di cervelli, forse i nostri ricercatori potrebbero anche adeguarsi a lavorare qui. Quali sono le strade da intraprendere? A cosa state lavorando a livello di esecutivo? Ma dunque, diciamo, distinguerei due temi. Uno strutturale è il fatto di creare opportunità di rientro nell'università, e quindi le abilitazioni nazionali che ora si stanno lanciando in maniera molto aperta. Spero che agevolino e invoglino le persone a ritornare, e poi credo che sia anche importante lavorare su un sistema di opportunità che va un po' al di fuori anche dell'università nel senso stretto, cioè una persona che si è formata in un brillante laboratorio di ricerca negli Stati Uniti sarebbe anche bello che venisse a contribuire allo sviluppo della nostra industria, della nuova imprenditorialità. Ma bastano incentivi monetari, fiscali, cioè basta offrire loro uno stipendio più alto e secondo lei questo tipo di professionalità viene a vivere? Secondo me no. Secondo la letteratura internazionale no, e anche secondo la nostra esperienza, perché qualche tentativo legislativo c'è stato e non fortunatissimo. Direi la parte monetaria mi sembra la meno rilevante. La più rilevante è far trovare un sistema aperto, dare delle condizioni strutturali per poter fare ricerca, vuol dire attrezzature, gruppi, di ricerca, persone, ricercatori, e per questo io credo che sia molto importante che il Paese ricostruisca un buon rapporto con la sua comunità di ricerca espatriata, che purtroppo ha delle storie spesso negative, ha subito anche dei torti, diciamolo pure, qualche volta, e quindi ha un rapporto ostile con l'università italiana. In questo senso noi stiamo cercando invece di riannodare un filo di fiducia reciproca, perché ovviamente ne beneficeremmo, insomma. Questa comunità di espatriati all'estero è costellata di eccellenze che vengono poi apprezzate e costituiscono un patrimonio anche quantificabile ed economico per gli altri paesi. Basti pensare ai 243 brevetti che i nostri migliori 50 cervelli hanno depositato all'estero. Cioè la fuga di cervelli si misura anche in questi termini. Vorrei tornare al professor Andrea Lenzi, che abbiamo recuperato e che ci stava parlando del prestigio dei nostri ricercatori all'estero, quindi la testimonianza in qualche modo del fatto che anche le nostre università funzionino. Innanzitutto, cosa può portare a corredo della sua affermazione che i ricercatori italiani all'estero sono molto apprezzati? Ci sono classifiche? Certo, l'ha detto un attimo fa lei, se è vero che i 50.000 ricercatori italiani all'estero hanno prodotto 243 biglietti, che credo che siano anche stati valorizzati per circa un miliardo di euro, qualcosa di simile, questo vuol dire che sicuramente abbiamo costruito una buona squadra. E tra l'altro io mi permetterei anche di dire che io non sono tanto preoccupato della fuga dei cervelli, perché la ricerca è un mercato globale dove infatti non esiste il fatto di doversi fermare necessariamente nel sito dove hai studiato. È evidente che per il sistema paese però questo deve essere un bilancio che deve essere tanti escono e tanti entrano, come minimo, addirittura se non al contrario ne vengono di più di quelli che ne escono. Cioè la cosa mi preoccuperebbe molto poco, ovviamente, se non avessimo poi il rischio di con fatica produrre delle ottime professionalità e perderle mentre non ne acquisiamo, come diceva proprio poco fa. Quindi la preoccupa non tanto l'export, che anzi è benefico perché si fanno deve esserci chiaramente nella musica come nell'università, ci devono essere contaminazioni, ma la preoccupa è il mancato import, diciamo, è poco attrattiva l'università italiana. Perché? Quali sono i problemi che incontrano? Perché non c'è quello che io chiamerei un ecosistema della ricerca ancora adeguato. Devo dire che l'attuale governo sta facendo uno sforzo enorme e il ministro, essendo uno, come si suol dire, una persona informata sui fatti, fortemente competente, assieme ai suoi collaboratori, sta creando le condizioni per la prima volta di una vera internazionalizzazione e di un vero recupero di questi cervelli che sono all'estero, o ancora meglio di recupero di cervelli dall'estero. Perché come diceva poco fa Camerini, sarebbe essenziale che anche un ricercatore formato sia a Harvard piuttosto che a Oxford trovi qui da noi il pabulum e l'ecosistema giusto, e anche che provenga magari da paesi in via di sviluppo come sono le cosiddette tigre dell'Oriente piuttosto che i paesi sudamericani, cioè noi o l'Europa dell'Est, il Nord Africa. Però noi potremmo essere fortemente attrattivi se solamente creassimo le condizioni adeguate per questi ricercatori. Quindi si tratta di creare appunto quello che io chiamo ecosistema di ricerca adeguato. Ora abbiamo promesso agli ascoltatori di dar voce alle loro testimonianze. Alcuni potrebbero avere anche delle domande da fare al collaboratore del ministro. 800 24 00 24. Approfittatene ora. Marco, buongiorno. Buongiorno. Sì. Volevo dire la mia esperienza, sia quella personale di parecchi anni fa, io sono di famiglia molto modesta, mio padre e mia madre erano contadini, ho fatto medicina e la situazione universitaria, tutto sommato con le critiche che ho sentito adesso, non sono molto cambiate in 35-40 anni. I miei figli hanno fatto recentemente, devo dire, corsi universitari, mio figlio economia a Roma e mia figlia veterinaria a Perugia, sono ragazzi che potrei definire assolutamente non talentuosi, quindi non eccellenze. Il pericolo... Speriamo non la stiano ascoltando. Cioè qui si crea un incidente in famiglia. In Inghilterra. Con internet. Sì, quindi lei dice non è che molto modestamente apprezziamo anche questa misura molto di basso profilo del padre. Dice non è che i miei fossero le eccellenze degli atenei italiani, però cosa è successo? Il grande vantaggio, soprattutto ai vecchi anglosassoni, è che veramente tutto è basato su quello che presenti, su quello che hai fatto e su quello che puoi fare. Il concetto ovviamente di raccomandazione è un qualcosa di totalmente inesistente. Quindi entrambi hanno fatto dei piccoli periodi durante l'università all'estero, non più di mio figlio 3 mesi, mia figlia 6 mesi con Erasmus. Dopodiché hanno lavorato in Italia per un po' e mio figlio adesso ha un'occupazione a Londra da 1 anno e mezzo. E mia figlia sta facendo la specializzazione di veterinaria, di pronto soccorso, di clinical care a Filadelfia. Il tutto in competizione assoluta con altri laureati americani, inglesi, spagnoli, eccetera. Ce li siamo giocati, cioè i suoi due cervelli rientreranno secondo lei un giorno? Hanno pianificato un'esperienza a termine, anche se poi non si può mai dire, perché mille fattori anche personali poi subentrano naturalmente, ma così quando sono partiti le hanno detto che rientreranno, pensano di starci per un po', o secondo lei è diversificata la situazione? Mio figlio per esempio aveva un lavoro a tempo indeterminato a Roma e l'ha lasciato dopo aver fatto un master in Inghilterra, ha trovato un lavoro in Inghilterra e credo si fermerà definitivamente lì, poi mai dire mai. Per mia figlia invece è diverso, dopo la specializzazione intende rientrare in Europa, se ci sono le possibilità anche in Italia e altrimenti in altri paesi. Quindi il suo giudizio complessivo sulla formazione universitaria italiana? Dipende moltissimo i ragazzi di inventarsi il percorso di studio. Inventarsi significa studiare moltissimo in assenza di una vera accoglienza, in mancanza di tutor veri, in mancanza di ordinamenti certi, ma il tipo di studio, come dire, ancora vale, è molto sul, paradossalmente quasi dico, sull'autoformazione. Sta molto all'individuo, però il sistema ancora merita dei voti positivi, ci sembra di comprendere da Marco, che salutiamo, chiamava da Roma, ci spostiamo a Lecce. Buongiorno Leonardo. Sì, buongiorno. La domanda di oggi è questa: se lei avesse un figlio o se lei fosse il diretto interessato, meglio l'università oggi come oggi, farla all'estero e poi tornare, farla all'estero e rimanerci, compiere il percorso di studi in Italia è equivalente? Questa è la domanda che ci stiamo ponendo, Leonardo. Sì, io ho seguito la trasmissione, quindi la domanda mi sembra chiara e la risposta non è altrettanto semplice però, perché bisogna fare anche un discorso sul riconoscimento dei titoli universitari ottenuti all'estero in Italia, che non sono sempre banali. Io stesso ho fatto un percorso di studi in Italia e poi ho lavorato parecchi anni all'estero, però non è sempre facile tipo fare un dottorato all'estero e poi farselo riconoscere in Italia. Io volevo fare un commento un po' più generale sul sistema universitario, che secondo me andrebbe assolutamente aggiornato su vari aspetti. Citiamone alcuni, cerchiamo di lasciare spazio anche ad altri. Andiamo Certo. Io sono un ricercatore, quindi dal di dentro posso sicuramente fare qualche affermazione. Sono venuti tanti ricercatori dall'estero a lavorare nel mio gruppo, adesso il gruppo è di 10 persone, sono venute tante persone. In quale ambito più o meno lei opera? Nella bioingegneria. Sì? Sono venuti e è rimasto impressionato, c'è molto da invidiare, ci sarebbe da importare? Sì, c'è molto da invidiare, secondo me il sistema di formazione è troppo lungo. In Italia? In Italia è troppo lungo, sì. Perché da me sono venute persone di 26 anni già col dottorato di ricerca. In Italia, è impressionante però, 26. A 26 anni uno se gli è andata bene alla laurea, quindi la laurea. Sì, quindi no? Sforbiciare in quel. La durata, sì. Cioè, ha la qualche domanda da fare al consigliere del ministro che è con lei il nostro ospite? Ha qualche domanda da porre diretta? Sì, voglio dire, il concetto è che non siamo attrattivi per i cervelli che vengono da fuori. Io sono stato attrattivo con questi ricercatori perché avevano uno stipendio di circa 5.000 euro. Perché erano dei progetti europei con degli stipendi in qualche modo già prefissati. Quindi intervenire anche in quell'ambito salariale, sì, giusto? Hanno intenzione di adeguare gli stipendi dei ricercatori, dei professori universitari italiani a quelli dell'estero. A quelli europei. Grazie a Leonardo. Grazie. 800 24 00 24, professor Mario Calderini, consigliere del ministro Francesco Profumo per le politiche di ricerca e innovazione, per chi si fosse sintonizzato da poco, la domanda era tutta per lei. Vediamo se ce n'è un'altra che viene sempre dai nostri ascoltatori. Antonio, buongiorno. Allora, volevo dire varie cose. Ne parlo. Cerchiamo di sintetizzare per lasciare un po' spazio a tutti. Sì. Io sono stato ad Oxford e ho conosciuto persone da tutto il mondo. Sì. E una cosa che ho notato, diciamo, da diverse università del mondo, gli studenti non gli è consentito laurearsi se non dimostrano alla propria università, nel proprio paese, di avere una proficienza concreta in una lingua straniera, tipicamente l'inglese. Ad esempio anche in Cina succede questo. Gli amici miei cinesi mi hanno raccontato questo, che quando tornano lì per potersi laureare devono dimostrare questo. Sì, sì, non gli anglosassoni però. Come? Non gli anglosassoni però. Lei sta parlando di altri, di studenti? No, io sto parlando di Oxford, un'università mondiale in cui ci sta gente che viene da tutto il mondo, tra cui anche ragazzi cinesi. Sì, ho detto che non sono gli anglosassoni a essere eccellenti nel bilinguismo. No, loro non parlano altre lingue. Esatto. Tipicamente per niente, tipicamente parlano solo inglese, gli anglosassoni. Sì. Quindi lei dice l'internazionalizzazione dei nostri atenei passa anche da questo. Secondo me, poiché io vedo che nelle nostre facoltà di ingegneria, per esempio sono ingegnere, gli studenti, non so come a Torino, ma un po' in giro per l'Italia, non parlano l'inglese quasi per niente. Cioè una cosa è leggere qualcosina, altra cosa è discutere, capire. E saper difendere una tesi, è chiaro. Allora io mi chiedo, poiché noi abbiamo degli esami di idoneità all'università, ma che sono, diciamo, chiedo scusa, una cosa ridicola, no? Gli studenti lo superano senza comunque sapere ancora niente di inglese. Non sarebbe molto molto semplice mettere una norma che dice proprio questo, cioè una cosa concreta. Non ci si laurea, lo studente lo sa fin da quando si iscrive all'università, che prima di laurearsi deve portare questo certificato, quello vero però, non quello non ottenuto chissà in quale modo. Una cosa molto molto semplice, secondo me darebbe una differenza. Grazie dello stimolo, Antonio. Ci chiamava da Napoli, tutte domande in attesa di risposta. Noi naturalmente vogliamo sentire anche le vostre all'800 24 0024, oppure potete contattarci via SMS al 349 238 6666. La domanda di oggi: visto che nelle classifiche mondiali stenta a spuntare nei primi 100 posti in un'università italiana, sul podio poi non ne parliamo, e vale la pena di fare un percorso di studi universitario all'estero, meglio completarlo del tutto fuori, meglio unire competenze italiane a un'esperienza straniera? Cosa bisogna fare di fronte alla possibilità di scegliere il proprio percorso di formazione? Ora il meteo e ci ritroviamo tra pochissimo. Salva Danaio. 33 minuti dopo le 12, ancora buongiorno da Irene Zerbini, New York Times, solita classifica sulle università migliori del mondo e solito risultato. Allora, l'Istituto di Tecnologia della California sul podio al primo posto con 94,8 punti, Harvard e Stanford al secondo posto pari merito con 93,9 punti, la prima università europea è Oxford che è al quarto posto con 93,6 punti e nelle prime 100 posizioni si trovano principalmente atenei americani e inglesi. Facciamo polemica dopo, anche su queste classifiche, senza fare gli autarchici o i nazionalisti, però bisogna anche prendere in esame i criteri con cui si stilano delle classifiche. I francesi l'hanno fatto a muso duro dicendo non sono accurate, privilegiano le materie matematiche su quelle umanistiche, le università europee in genere sono specializzate in materie umanistiche, ma non è solo questo, è un problema che ha a che fare anche con le citazioni, parlavamo di lingua, con le citazioni nei giornali internazionali. È chiaro che colui che difende una tesi, un argomento in inglese avrà più possibilità proprio di essere letto all'estero. Questo provincialismo c'è anche tra i giornalisti, non è un caso che tutto ciò che arriva da New York o dall'Inghilterra faccia subito titolo ovunque nel mondo, perché qualcuno in redazione che parla inglese c'è sempre, poi chi parla austriaco, polacco o ungherese è più difficile da trovare. Questo non vuol dire che la notizia pubblicata dai giornali di quei paesi non meriterebbe altrettanta attenzione. attenzione. Ma chiusa questa parentesi, tornerei con Andrea Lenzi per chiedergli proprio di rispondere a questi primi due stimoli dei nostri ascoltatori. C'è chi ha detto basterebbe adeguare i salari dei ricercatori e stia tranquillo che anche l'università italiana diventa attrattiva per i cervelli stranieri, e qualcuno che ha spinto l'acceleratore sull'inglese. In che direzione ci stiamo muovendo? Ah, dunque, per quanto riguarda l'adeguamento dei stipendi dei ricercatori, è indubbio che questo è uno dei motivi che rendono difficile anche l'attrazione. Per questo prima abbiamo parlato forse di una difficoltà nostra nel competere nell'attrazione con ricercatori di paesi anglosassoni, ma forse ci potremmo spostare la nostra attenzione anche a ricercatori di altri paesi, dove tutto sommato la situazione economico-finanziaria, non possiamo nascondercela, è quella che il nostro paese sta faticosamente, da cui il nostro paese sta faticosamente uscendo. Detto questo, è evidente che poi ci sono anche le condizioni di vita di contesto, perché è chiaro che lo stipendio è anche adeguato alla qualità e alle standard del costo della vita, e quindi è chiaro che la nostra quantità di denaro guadagnato è proporzionata anche al costo della vita nel paese, che non è certo paragonabile in tutte le parti del mondo. Per quanto riguarda l'inglese, quindi l'internazionalizzazione, torniamo di nuovo a un parametro di cui avevamo già parlato, è evidente che l'idea dell'ascoltatore non è sbagliata. Credo che l'Università Italiana stia facendo tanti sforzi in questo senso, tant'è che cominciano a fiorire sempre più numerosi i corsi interamente in inglese, e corsi che attraggono anche quindi studenti dall'estero, quindi studenti che dall'estero vengono a studiare da noi proprio perché il corso è fatto interamente in inglese. Del tutto di recente sono comparsi anche corsi di laurea di medicina e chirurgia, che forse era una delle cose che più erano meno attese, vista anche la lunghezza del corso interamente in inglese. Ma l'inglese, secondo lei, deve essere adottato come lingua accademica per ogni corso, per ogni facoltà, per ogni disciplina? Beh, no, non avrebbe senso a giurisprudenza, non avrebbe senso nelle facoltà delle scienze umane, che insegnano materie che sono poi da utilizzare necessariamente in italiano e in Italia, ma certamente nell'ambito economico, piuttosto nell'ambito ingegneristico, nell'ambito scientifico, biologico e medico, può avere senso avere o tutti e due, o certamente solo la lingua inglese, per esempio nella cosiddetta formazione di terzo livello, cioè quella del dottorato di ricerca. Dottorato di ricerca che anche questo in Italia sta in questo momento modificando un po' la pelle, perché finalmente diventa non solamente prodromico alla carriera accademica, ma anche utile per l'impresa piuttosto che per la pubblica amministrazione. Quindi un dottorato di ricerca, il cosiddetto PhD americano, che serve per dirigenti in qualche maniera, in qualche si ambi del campo. Senta, quindi è fondamentale che sia in lingua inglese. L'organo di cui lei è presidente formula pareri e proposte al Ministero dell'Università e della Ricerca. Ne faccia una al consigliere oggi nostro ospite. Cioè, secondo lei, visto che ha riconosciuto, sono stati fatti passi avanti in settori importanti da parte del governo per la modernizzazione della nostra offerta universitaria, la prima riforma che lei farebbe, Lenzi, se avesse la possibilità, come dire, di agire senza poi essere votato? Direi che se io potessi, intanto per quanto riguarda le università italiane, cercherei di dare un forte stimolo per una loro messa in rete sempre più forte, perché le università italiane si sono un po' forse troppo disperse e frammentate, per diventare, se si riunissero o facessero network, diventerebbero sicuramente delle aggregazioni altrettanto forti. Non dobbiamo dimenticare che alcune classifiche sono anche basate sulle dimensioni delle università, oltre che sulla quantità, qualità del prodotto scientifico. E l'altra cosa, fermo restando quello che lei prima ha detto, è che queste graduatorie sono un po' come quelle di Moody's per quanto riguarda l'economia, qualche volta c'è qualche vizio di fondo. E l'altra cosa che potrebbe essere fondamentale è spingere l'acceleratore al massimo anche sulla cosiddetta terza missione dell'università, cioè non solamente didattica e produzione di ricerca, ma anche valorizzazione della ricerca stessa. Cioè, lei prima ha parlato di brevetti dei nostri migliori ricercatori all'estero. Ecco, l'università italiana ha un po' perso del tempo nell'insegnare ai nostri migliori ricercatori che pubblicano tanto e bene, ma molto spesso brevettano poco e male o per nulla, e quindi non valorizzano la loro attività scientifica. Cioè, la scienza non è necessariamente solo la scoperta del secolo, ma è anche produrre ricchezza per se stessi e per il paese attraverso la ricerca scientifica. Chiaro, un po' di sano pragmatismo. Grazie a Lenzi, che ci deve lasciare proprio per i suoi impegni, lo ricordiamo, è presidente del Consiglio Universitario Nazionale. Professor Mario Calderini, consigliere del Ministero dell'Istruzione e del Ministro Francesco Profumo per le politiche di ricerca e innovazione. Tanti stimoli le abbiamo sottoposto in questa trasmissione. Comunque rimane il fatto che le nostre università in queste famose classifiche non ci entrano proprio. Perché, secondo lei? Un po' di cose le avete dette, queste classifiche misurano molto la ricerca, un po' meno la didattica, e tutte le cose che avete detto sono vere. Io penso che il sistema italiano sia un sistema che ha una qualità media ancora importante. Per risalire queste classifiche, come lasciava intendere anche il Presidente, io credo che si debba cominciare a fare delle cose forti. Per forti intendo ad esempio la cosa che sta succedendo nelle università italiane. Proprio in queste ore si sta parlando moltissimo di sistema di valutazione nazionale, non è autocelebrativa di questo governo perché è stata introdotta dal ministro Gelmini, e credo che questo cambierà radicalmente il sistema di incentivi dei ricercatori italiani. È anche vero che dobbiamo affrontare ad esempio il tabù di, se vogliamo proprio avere 70 e più università, tutte che fanno un po' di ricerca, o se per caso vogliamo sceglierne, come si fa in alcuni paesi, 10-15, e dire che quelle saranno le nostre grandi università, che ci ritroveremo nelle classifiche internazionali tra qualche anno, perché poi questo è che fanno gli altri paesi. Il modello di università, di nuovo, cui facevate riferimento, è molto importante. Io vi invito a fare un esercizio così, che sembra un po' strano, ma forse vale la pena farlo. Pensate a come è fatto l'University of California, con le sue 7 sedi disperse per la California. Pensate ad alcune macro regioni del nord Italia e pensiamo se per caso appunto questo processo di aggregazione e di alleanza tra alcune grandi università, grandi politecnici del nord, grandi facoltà scientifiche del nord, non potrebbe portare rapidamente, con dei processi di aggregazione, a delle unità che poi scalano le classifiche abbastanza rapidamente. A dei benefici, delle sinergie in campo accademico e di ricerca. Torneremo poi con lei per parlare di cosa ora è in corso. Per esempio esiste un progetto Angels, un programma diaspora, un portale Universitaly. Ma prima diamo la parola ai nostri ascoltatori. 800 24 00 24 ci ha chiamato Vladia, buongiorno. Buongiorno. Vladia, dica. Sì, e niente, come dicevo alla segretaria, io sono una ricercatrice, sono rientrata. Prima si parlava dell'attrattiva dell'università italiana. È rientrata, diciamo, da dove, Vladia? Sono rientrata dopo 7 anni in America, sono stata 5 anni all'NIH, a Washington, e poi ho lavorato per una biotech e nell'ambito della tumor immunology, quindi medicina. Sono rientrata come ricercatrice e diciamo con degli incentivi anche salariali. All'inizio sembrava tutto semplice. E dopo un anno mi sono resa conto che la situazione non era assolutamente permissiva. Quindi cioè in che senso permissiva, mi scusi? Permissiva per poter impiantare in Italia quello che ho imparato all'estero, perché ti ritrovi ad avere poco personale, studenti molto giovani, fondi limitati e comunque sia appunto non gestibili direttamente. Tutto questo. Quindi lei mi sta facendo riferimento a dei parametri che non sono puramente economici. Lei non si sta lamentando del suo salario, ma proprio delle condizioni in cui operare. Che come sentivo prima, non ricordo l'intervento di chi, ma si diceva che ovviamente il salario deve essere rapportato anche per lo stile di vita, e ovviamente io sono una ricercatrice, diciamo, giovane, ho 40 anni e 15 anni di esperienza, ma per l'Italia vengo considerato un giovane ricercatore, e ovviamente un salario che è più basso di quello di un commesso dopo tanti anni di studio. In più sta annoverando questi ostacoli che si è trovata nell'operatività quotidiana. Grazie a Vladia da Verona. Agostino, buongiorno. Buongiorno, io sono un ingegnere e lavoro in un'azienda, una multinazionale che ha sede in Genova. Ecco, io mi occupo di telecomunicazioni. Io da almeno 10 anni desidererei passare in un istituto di ricerca tecnologica. Qui a Genova abbiamo un esempio molto importante che è l'IIT, ma le difficoltà sono principalmente di due ordini. La prima è l'incertezza della dell'impiego, perché tutte le offerte sono rarissime, comunque sono a tempo determinato. A progetto, io, diciamo, sì. A progetto. Io ho famiglia, non posso rischiare di lasciare il posto fisso che ho da 25 anni. A meno che la coprano d'oro, cioè ci vogliono degli incentivi economici, sì, naturalmente, per compensare l'incertezza. Sì, una è questa. L'altro aspetto è questo, che tra l'università e il mondo dell'industria, secondo me, manca un ponte di collegamento che dovrebbe essere molto più stretto, cioè dovrebbe esserci una sinergia maggiore. Noi abbiamo esperienza nel campo pratico, nel campo della progettazione, potremmo dare un apporto abbastanza importante, secondo me. Agli studenti, lei dice, a chi si forma? Sia che si forma, sia anche alla ricerca, per esempio nel campo della robotica, nel campo della cibernetica, che è quello che più mi interesserebbe. Ecco, secondo me se ci fosse un ponte più stretto, cioè quindi... che favorisca la modalità, la mobilità di entrambi, esatto, i settori. Molto, esatto, interessante anche questo stimolo. Grazie. E ci scrive anche un suo allievo, professor Calderini, dice che ha studiato con lei per 6 anni, però un po' scoraggiato. La ringrazia per la chiarezza delle lezioni, però pensa che addirittura sarebbe stato meglio non fare l'università ma imparare un mestiere. Riferimento sempre alla disoccupazione e alla scarsa valorizzazione anche in termini economici dei laureati in Italia. Cosa risponde? Ma all'ultima questione sul fatto che sarebbe meglio non fare l'università e imparare, no, non sono d'accordo evidentemente, perché poi le cose che si imparano all'università italiana in particolare ritornano e sono di grande valore. Io penso che non si debba girare attorno alla questione, bisogna dirlo con chiarezza. Un ricercatore che torna in Italia in questo momento ha un'alta probabilità di non trovarsi particolarmente bene. Beh, ma è terribile questa affermazione, mi scusi, lei occupa un posto di responsabilità? No, mi lasci spiegare. Sì. È probabile che non trovi delle condizioni, ma l'università italiana in questi ultimi anni sta cambiando in maniera forte. Allora, io quello che vorrei è parlare alla comunità che sta fuori in questo momento dal paese e dire che certamente è probabile che rientrando nell'università italiana si trovino delle situazioni difficili, che sono figlie di moltissimi anni di cose che non hanno funzionato bene. Vi inviterei a guardare invece un processo di cambiamento forte, che è il fatto che i nostri atenei stanno cominciando a offrire corsi in inglese, che è il fatto che la valutazione sta diventando criticabile, ma sta diventando un elemento centrale, che è il fatto che c'è un'attenzione forte che ha abbastanza salvaguardato il sistema in questo momento di, diciamo, di sobrietà economica. Io credo che... E poi c'è un'altra tematica importante per quel che riguarda il cervello che rientra, chiamiamolo così, che è quello del reclutamento, della selezione di queste persone che possono mettere a disposizione del paese, perché spesso questo è il desiderio che li muove, anche in cambio di un salario inferiore di quello che percepiscono all'estero, quanto hanno imparato. Vi racconto una storia tra pochissimo, anzi ve la racconta la diretta interessata. Prima però la viabilità. Salva Danaio. 11 minuti prima della conclusione, vogliamo raccontarvi una storia. Annalena Venneri, professoressa, buongiorno. Buongiorno. Grazie per la pazienza, ne ha sentite tante. Lei è un cervello che racchiude in sé quasi un'icona di quanto stiamo parlando e la fuga, diciamo così, dall'Italia e la volontà di rientro. Ma cosa le è successo? Proviamo a sintetizzare. Brevemente, io sono rientrata con il programma ministeriale che era stato messo in atto alcuni anni fa, sono rientrata in Italia nel 2004. Da dove e in quale specialità lei lavora? Quando io lavoro nel campo delle neuroscienze cliniche e quando io avevo fatto domanda per il programma rientro dei cervelli lavoravo ad Aberdeen, nel frattempo mi ero spostata... Lavorava, mi scusi? All'Università di Aberdeen in Scozia. Sì? E poi mi ero spostata perché i tempi di valutazione per questo programma erano stati piuttosto lunghi, nel frattempo la mia carriera era andata avanti fino a diventare full professor all'University of Hull nel North Yorkshire e sempre in Inghilterra e ero rientrata all'Università di Modena, Reggio Emilia, nel 2004. Ho fatto 3 anni col programma del rientro dei cervelli iniziale più un ulteriore anno perché avevo avuto una proroga del contratto per un altro anno. Quindi lei voleva rimanere in Italia? Questo sì, era volevo rimanere in Italia, sì. Uno per tutte le ragioni che lei ha raccontato, perché mi sembra giusto che un investimento venga fatto, ma soprattutto che poi l'individuo abbia la possibilità di scegliere dove esercitare le proprie competenze. Io credo che sia positivissimo andare a fare delle esperienze all'estero, sono d'accordo con chi ha detto prima che soprattutto per la formazione più alta, quella del livello del PhD eccetera, credo che le università all'estero offrano, siano molto più competitive di quello che è quel tipo di formazione in Italia. Quindi lei voleva rimanere in Italia, c'era riuscita, sì, a rientrare con questo programma che finanziava, diciamo così, le valigie, la partenza da dove si trovassero i nostri ricercatori, e rientrassero. E ci tengo a sottolineare che il fattore economico per me non era il primo. No. Cioè non era la prima voce, no, ci ha provato, no. Anche è rientrata. Se ovviamente come tutti bisogna garantire uno stipendio commensurato a quello che sono le qualità e la professionalità delle persone, è perché chiaro. Non è giusto che le persone lavorino con delle condizioni di non adeguate, insomma, economicamente. E dove si trova lei adesso? Io mi trovo all'Università di Sheffield, nel Medical School, nel Dipartimento di Neuroscienze, dove ho la cattedra, sono full professor di neuroscienze. E quindi è tornata a Sheffield perché? Sono tornata a Sheffield, sono tornata in Inghilterra semplicemente perché, nonostante io abbia provato a vedere se la mia posizione o nell'università dove ho fatto il programma del rientro o in altri atenei dove la mia area poteva essere di interesse, soprattutto dove c'erano quel tipo di apparecchiature e di condizioni perché io potessi continuare a fare il mio lavoro allo stesso livello in cui ero riuscita a farlo sia a Modena che nei posti dove ero stata in precedenza, e io purtroppo questa possibilità non l'ho più avuta perché non ho avuto risposta da questi atenei, o quando ce l'ho avuta la risposta è stata negativa. Addirittura manco le rispondevano. No, questo è il primo obbligo che il ministero dovrebbe mettere. È vero, fa parte della maleducazione, fa parte della mentalità, ma la grande differenza quando si lavora nell'università all'estero è come per ogni email si ottenga una risposta, e qui invece si lanciano come delle bottiglie nell'oceano, non si sa mai dove sono andate a finire. Alessandro, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Ma dunque, io ho 2 figlie, tutte e 2 laureate in discipline scientifiche, e lavorano da appena laureate, una a 30 e una a 32 anni, a Londra. Devo dire che il problema che hanno trovato non è di qualità, perché diciamo dal punto di vista conoscenze scientifiche i nostri laureati sono molto superiori ai laureati inglesi, spagnoli, di tutto il mondo. Quindi che difficoltà hanno trovato? Hanno trovato la difficoltà dell'esperienza, cioè lì si sono trovati dei colleghi molto più giovani di loro che lavoravano già da 2-3 anni. Chiaro, perciò, quindi quando lei dice molto più giovani, dice dei laureati, e cioè laureati, esatto, che avevano 22-23 anni, già laureati, lauree molto specifiche. E che quindi a 26 anni in curriculum vantavano delle esperienze che le sue figlie non potevano avere. Grazie per questo stimolo ad Alessandro, ci chiamava da Pisa. Buongiorno Ernesta. Buongiorno. Dica. Allora, io sono la mamma di una ragazzina che sta per laurearsi a settembre in sociologia con indirizzo criminologia. Sì. Primo anno di università è stata presa per l'Erasmus, per cui ha fatto già la sua esperienza. Dove? A Glasgow. Mm-hmm. E, diciamo che come cervello è stato uno dei migliori, tant'è vero che ha già ricevuto parecchie richieste. Solo che lei è tornata in Italia perché ha finito l'anno scolastico di Erasmus, appunto si sta laureando e proseguirà, anziché la specializzazione lì dove già l'avevano richiesta, in Italia, perché c'è un corso di formazione che le interessa, criminologia, che è tutto interamente in inglese. E quindi per lei voto positivo per questa iniziativa a cui si stanno improntando sempre più corsi in Italia. Sono 103 in questo momento quelli che vengono svolti in inglese. Quindi internazionalizzazione, accorciare i tempi. È la seconda volta che sentiamo questo stimolo dagli ascoltatori. Professoressa Venneri dallo Sheffield, in 30 secondi cosa consiglierebbe al governo? Abbiamo anche un suo rappresentante, un consigliere, un advisor oggi tra i nostri ospiti. La prima riforma per rendere attrattiva l'Italia per i ricercatori? Beh, è quello che diceva il consigliere prima, cioè bisogna fare una riforma strutturale in modo che ci sia quella flessibilità all'interno delle università italiane che permetta a ricercatori italiani che vogliano rientrare, ma anche a ricercatori stranieri che possano venire stare senza troppi ostacoli anche burocratici. Grazie. Ma non è una questione di burocrazia, è proprio una questione di bisogna cambiare la mentalità nella gestione quotidiana della ricerca. Grazie alla professoressa Venneri. Professor Calderini, la lasciamo i suoi impegni di governo. C'è qualcosa che l'ha sorpresa tra tutto ciò che ha sentito oggi? No, devo dire, sono cose che sentiamo quotidianamente e che mi sembrano tutte parte di un disegno. Io credo che chiunque sappia che cosa si deve fare. Ma come fare che questi cervelli, questa eccellenza che produciamo, perché possano servire all'Italia, diciamo così, senza fare i nazionalisti, ma semplicemente per questioni di competitività, invece che andare a prendere premi, riconoscimenti e brevetti all'estero? Io credo che dobbiamo partire dal riconoscimento che la mobilità è un valore per il paese. Senza dubbio. Quindi penso che il fatto che qualcuno, che molti dei nostri ricercatori, studenti viaggino, è un valore che però... Ma i nostri fuggono in percentuale superiore a quella degli altri. Sì, non è solo questo, e dobbiamo anche essere sicuri che non fuggano i migliori. Adesso questo noi non lo sappiamo, ma insomma noi vogliamo che i migliori tornino. Grazie professor Calderini. Purtroppo ci dobbiamo fermare qua. Da Irene Zerbini buona giornata, Salvadanaio torna domani.